Ormai Israele è senza freni e le parole di Donald Trump sono molto gravi, perché implicano questa idea di ripulire Gaza, implica una pulizia etnica, e l'idea di Trump è quella di spostare il maggior numero possibile di palestinesi in Egitto o in Giordania, ed è un piano molto pericoloso che già era stato rispedito al mittente dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, ma che in realtà da anni si sta preparando. Pensiamo al fatto che sono state distrutte 12.000 case dalla Rish nel Sinai, sono stati espropriati 6.000 ettari di terreno, sono state costruite due possibili zone cuscinetto per accogliere i rifugiati palestinesi dalla Rish a Rafah. Tanto è vero che durante la guerra a Gaza ci sono stati vari reportage della BBC che hanno parlato della costruzione di una zona recintata in Egitto dove sarebbero dovuti arrivare proprio i rifugiati palestinesi. Gli egiziani hanno subito negato, hanno parlato di una zona di parcheggio, d'altra parte hanno tenuto chiuso il valico di Rafah anche per i rifugiati e per i feriti, alimentando una sorta di business dell'accoglienza, per cui tra i rifugiati e i feriti che potevano pagare ingenti somme di denaro sono poi andati al Cairo. E l'esercito egiziano ha per un periodo di tempo controllato il corridoio Filadelfi che separa Gaza dal Sinai, quindi questi 13 chilometri, e quindi è sempre stata lì sul tavolo la questione della possibilità di dire, deportare i rifugiati palestinesi in Egitto. Al-Sisi diceva vadano nel deserto del Negev e non vengano qui in Egitto, e l'ha posto un po' come una questione centrale, lo stesso ha fatto dopo le parole di Trump. Evidentemente c'è un ballo, ci sono in ballo i rapporti tra Egitto e Israele, che sono rapporti molto solidi, tanto è vero che l'Egitto è stato accusato di essere troppo appiattito su posizioni pro-israeliane anche durante il negoziato, e il Qatar un po' ha avuto il vantaggio di far firmare quella tregua che poi è stata siglata il 19 gennaio scorso a Doha, quindi significa che per l'Egitto è stata una sorta di occasione persa da un punto di vista diplomatico. Sappiamo che l'Egitto è uno dei paesi arabi che per primo ha riconosciuto Israele con i trattati di pace del 79, quando era presidente Anwar al-Sadat, e soltanto quando c'è stato Mohamed Morsi in anno al potere tra il 2012 e il 2013 i palestinesi hanno ottenuto un po' di visibilità, dei diritti in Egitto. Poi, quando dopo il colpo di Stato con al-Sisi, si è tornati indietro, e al-Sisi ha visto sempre in Israele un partner commerciale essenziale per quanto riguarda il gas, l'esportazione di gas, per quanto riguarda i rapporti bilaterali. Evidentemente, più in generale, al-Sisi teme una mobilitazione a sostegno di Hamas, che negli ultimi mesi, negli ultimi 15 mesi di guerra, è stata molto significativa. Sappiamo che in Egitto non si può protestare perché c'è una legge antiproteste. In realtà le mobilitazioni per Hamas si sono svolte nel paese, ci sono stati anche sostenitori di al-Sisi che hanno protestato, ma poi sono state represse. Quindi c'è un'opinione pubblica in Egitto, così come in Arabia Saudita, in Giordania, che è contro il genocidio, che è contro la guerra a Gaza, e c'è un'elite politica invece che vuole fare affari con Israele, vuole parlare, discutere e trovare accordi. Poi c'è la questione dei prigionieri politici palestinesi, già alcuni sono stati dei 200, degli ultimi 200 che rilasciati sono stati rispediti al Cairo, soprattutto quelli che avevano delle condanne più gravi: Mohammed Aradeh, Mohammed Odeh, Kassim, Wissam Abbasi, fratelli Abu Hamid, che sono tutti stati accusati di aver perpetrato attacchi terroristici in Israele in relazione alle mobilitazioni legate alla seconda intifada all'inizio degli anni 2000. Per quanto riguarda la Giordania, il discorso è un po' diverso, perché in Giordania ci sono 2,3 milioni di rifugiati palestinesi già, e il paese anche in questo caso ha assunto una posizione sempre vicina a Israele. Pensiamo solo al fatto che quando ci sono stati i raid iraniani diretti contro Israele, è stata proprio l'aviazione di Amman a bloccare alcuni di questi raid, proprio a intercettare una parte dei missili e dei droni che veniva diretta dall'Iran verso Israele. D'altra parte anche ad Amman c'è un sentimento a sostegno della causa palestinese. Però più in generale queste politiche di Trump, queste dichiarazioni di Trump, che poi si aggiungono a queste le cose che lui continua a dire, perché ogni giorno parla di questo piano, e proprio ieri c'è stato un pass passo avanti anche nello stigmatizzare qualsiasi sostenitore per la causa palestinese, chiunque manifesti anche negli Stati Uniti, studenti stranieri che manifestano a sostegno di Hamas, vengono stigmatizzati e possono essere tutti espulsi. Quindi c'è quest'idea che chiunque sostenga Hamas in fondo sia da condannare come antisemita, e questo è il discorso che Trump vuole inculcare, ed è un discorso molto pericoloso. Ricordiamo che Trump è l'uomo che ha trasferito l'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, che ha riconosciuto la sovranità di Israele sulle alture del Golan, quindi sarà lui che per questi 4 anni darà disco verde a qualsiasi cosa vuole Israele. Questo significa che la possibilità di avere uno Stato palestinese è sempre più lontana, anzi non è proprio in agenda, sia per assenza di continuità territoriale, ma anche perché non è nella volontà né di Trump né di Netanyahu, che tra l'altro visiterà presto Washington e sarà il primo a incontrare Trump dei leader stranieri che per primi andranno ad incontrare il nuovo presidente degli Stati Uniti.